mondo di strozzini dove ti colpiscono alle spalle come cecchini. Conta solo la fama, fratello. Sei un figo, sei il cellulare ultimo modello. Poi la tua tipa perde la testa per un tipo alla TV che non sa manco la sua esistenza. Quarantenni, riviste Costantino, ma alla tua età dovresti avere un bel bambino. Lascia stare le stronzate che ti dicono. Lascia stare tu, lascia stare. Lascia stare che è di quello che vivono. Lascia stare, lascia stare. Non importa dei consigli da accettare. Lascia stare tu, lascia stare. Di tutto il resto te ne devi fregare. Lascia stare, lascia stare. Delle puttanate, appena un problema se ne vanno a gambe levate. Ti dicono sei bravo, non te ne fare un vanto. Conta su chi ti sta veramente accanto. Hai un problema, non chiederlo alla gente. Se no perché t'hanno fatto un cervello ed una mente. Collega i fili e dopo prendi fiato. E forse riuscirai a trovare qualcosa di sensato. Non chiamare nessuno quando fai a botte. Usa solo le tue forze, son troppe. E protettori, ma dove vuoi andare? Non tirare fuori le palle solo quando devi scopare. Lascia stare, tutti parlano, così presi che dei propri cazzi manco se ne accorgono. Sono quelli e la patata scotta, manco una puttana ha così tanti cazzi in bocca. Lascia stare le stronzate che ti dicono. Lascia stare tu, lascia stare. Lascia stare che è di quello che vivono. Lascia stare, lascia stare. Non importa dei consigli da accettare. Lascia stare tu, lascia stare. Di tutto il resto te ne devi fregare. Lascia stare, lascia stare. Monache di clausura sono i primi che ti fottono e tra loro ci si incula. Sei uno sfacciato, predichi Gesù, fai carità e te la giri su una BMW. Non esiste questa roba, se sei credente vedi da dentro, da sotto, da sopra. E lo sai, pensi solo ai cazzi tuoi, se ci sono i comandamenti li hanno fatti per voi. Terza barra, va chi ha una divisa, ti sequestrano tutte se la fuma nella cinta. Fate finta, ho troppa esperienza, non fumiamo noi, andate voi in crisi di astinenza. Parte ultima, va che mi ha ascoltato. Un props a chi davvero non si è mai fermato. E ora lascia stare, non faccio niente per cambiare il mondo, ma ti avverto che va a puttane. Lascia stare le stronzate che ti dicono. Lascia stare tu, lascia stare. Lascia stare che è di quello che vivono. Lascia stare, lascia stare. Non importa dei consigli da accettare. Lascia stare tu, lascia stare. Di tutto il resto te ne devi fregare. Lascia stare, lascia stare. Lascia stare, non importa dei consigli da accettare. Lascia stare tu.